Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. È vero o no che ormai piccoli di umani quando mangiano un tramezzino pensano che la confezione di plastica faccia parte delle cose da inghiottire e la mamma deve levargliele di bocca? È come se è vero, ma anche quando mangiamo le zucchine, l'uva, le melanzane, mica togliamo la buccia. Ecco, oggi vogliamo parlare del packaging edibile. Che vuol dire mangiabile, commestibile. Ne parliamo con... Carla Severini, benvenuta a Food Lab. Salve a voi. Ecco, lei è professoressa di scienze e tecnologie alimentari all'Università di Foggia ed è qui per dirci che davvero i bambini potranno mangiare merendina e anche carta. No, adesso abbiamo scherzato ovviamente. Tutto, l'involucro. Però state brevettando, avete brevettato una pellicola commestibile. Sì, esattamente, è una pellicola, noi diciamo edibile, quindi si può mangiare. Che ricopre proprio questi prodotti da forno, quindi anche merendine per i bambini, e che serve per proteggerla, questa merendina, che può essere mangiata insieme appunto alla merendina. Oh, non è una confezione, quindi. Sì, non immaginiamola come la confezione adesso classica della crostatina. È proprio aderente. È proprio aderente. Sì, è proprio aderente. È proprio esattamente aderente. Come una pellicola. Da che cosa è costituita? È costituita da componenti naturali. Che sono, ovviamente non posso rivelare la composizione perché è un brevetto, ma i componenti sono tutti normali componenti degli alimenti. E quella che abbiamo brevettato per i prodotti da forno ha delle particolari proprietà, nel senso che protegge anche la merendina e quindi la conserva senza l'uso di conservanti. Non sa anche di niente, cioè non, o è più buona della merendina, voglio dire che a volte non è così difficile, ma sa di nulla. È assolutamente sì, in sapore, in odore, in colore, poi se si vuole si può aromatizzare come si vuole, si può colorare, si può fare quello che si vuole. La funzione della carta della merendina, diciamo, tradizionale è quella di appunto conservarla e garantirne anche l'igiene. In questo caso, come riusciamo a garantire appunto il fatto che rimanga pulita e commestibile? Certo, anche la banale polvere, no? In uno scaffale. Oh, certamente, no, è chiaro che il prodotto, anzi in questo caso, ha comunque una confezione esterna molto molto più semplice però di quelle che normalmente vediamo, quindi noi semplifichiamo e diamo una barriera alla merendina che conserva la merendina in modo che poi l'involucro esterno sia estremamente più semplice, quindi non è esposto diciamo all'aria, alla polvere, la confezione è molto semplificata e questa è una cosa estremamente importante per l'ambiente. Questo tipo di packaging avvolge completamente la merendina, ci può dire qualcosa in più su come è fatto? Noi lo immaginiamo come la pellicola normale? Sì, la deve immaginare come qualcosa che è completamente appunto aderente a immagini un muffin. Un muffin o una tortina. Sì, esatto, una tortina. Ma praticamente non lo vediamo. No, si può vedere una leggera appunto pellicola appena appena lucida, ecco. Come se il muffin o la tortina fosse immersa, diciamo, in una gelatina. L'impressione gelatina, è un po' quella. Però molto sottile. E questa leggera pellicola fa sì che non ci sia penetrazione di umidità dell'aria, per esempio, e quindi si conserva meglio, quindi per questo noi possiamo evitare di inserire conservanti, antimuffa, addirittura possiamo evitare di metterci dell'etanolo, ma per i bambini forse è importante che non ci sia l'etanolo. Quindi c'è addirittura il contrario di quello che ci si può immaginare. È più salubre in qualche modo. Certo, certo che è più salubre, perché lei deve pensare che questa pellicola è nata in realtà in seconda battuta, cioè la prima idea è stata quella di fare un muffin o comunque un prodotto da forno più leggero, light, quindi senza grassi animali o comunque con un ridotto contenuto di grassi. Questa nuova formulazione faceva sì che questo muffin fosse meno conservabile nel tempo. Allora ci siamo inventati questa pellicola esterna che invece lo rende alla fine più conservabile. Quindi... E dal punto di vista delle calorie non è che il packaging mi si accumula nei fianchi, no? Non ha problemi. Dovrebbe essere addirittura meno, no? Assolutamente okay. non aggrava situazioni non apporta, esistenti, ma okay. Anzi, no. Si può mangiare da qualche parte o dobbiamo venire da voi in laboratorio? Per ora dovrà venire a trovarci, ma non aspettiamo molto tempo, perché già ci sono state delle aziende che si sono dette interessate. Speriamo che entro un tempo ragionevolmente breve potremo andare in produzione. Ecco, quindi pensando ad un futuro proprio prossimo, sarà possibile davvero mangiare piatti, bicchieri e anche le confezioni? Io ho letto questo, cioè, stiamo andando verso adesso a parte gli scherzi, una riduzione quasi completa degli scarti. Sì, questo è assolutamente l'indirizzo. L'indirizzo, perché poi il mondo ormai è invaso a livello globale di packaging, di cartoni, plastiche, anche plastiche biodegradabili, quindi l'indirizzo della ricerca è senz'altro quello della riduzione, e poi all'interno di questo indirizzo generale rendere il più possibile o edibili o biodegradabili i materiali di confezionamento, oppure addirittura proprio i materiali su cui appoggiamo il cibo, certo. Esatto, e tra l'altro quello che abbiamo brevettato è stato applicato ai prodotti da forno, ma poi nell'ambito di un progetto finanziato dal MIUR noi abbiamo messo a punto poi delle altre pellicole sempre edibili che sono applicabili ad altri tipi di prodotti, ad esempio? Anche frutti di mare, per esempio. Ah, frutti di mare o piccole o mozzarelle insomma. Beh, non sarebbe male mangiarsi la caprese con attaccata la carta, diciamo, la pellicola. La pellicola. Esatto, ricoperta da questa pellicola che la protegge, e all'interno di queste pellicole stiamo sperimentando degli antimicrobici naturali. Bene, grazie Severini, davvero buon lavoro, è caso di dire. Buona ricerca. Voi. Grazie, arrivederci. E così voi ragazze non potrete più dire ai maschi che non sparecchiano la tavola. Vi mangerete tutte le stoviglie. Sì, anche le ragazze. Ciao, alla prossima.